快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道，有线调频98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 听众朋友，欢迎收听北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的音乐节目。在今天的歌舞剧场中，请欣赏意大利作曲家威尔第的歌剧《茶花女》，由安杰雷斯、贝里托纳、莫奈特演唱，罗马歌剧院合唱团乐团演出，塞拉芬指挥。下面就请您连续欣赏。 Gentor, dunque attenti. Sì. la bellezza in fiola e la fuggevole, fuggevole la sinebria voluta li viene dal cifra mitica che suscita l'amore poiché quella chiarca che vi turbò. Sto meglio. A inconta guisa ucciderete, ma verve d'uopo cura dell'esser vostro. E non potrei. O se mia foste custode veglierei per vostri soavidi. Che dite? Ma foste alcuno perché nessuno il mondo ama, nessuno tranne sol io. Ma io ero sì grande amor dimenticato mio. Ridete, e in voi va un cuore. Un cuore sì, forse, e a lei lo richiedete. Ma se ciò fosse, non potreste allora celiar. Dite davvero? Io non vi inganno. Da molto è che mi amate. Ah sì, da un anno. Un dì felice e te Croce delizia, delizia al cor. Ah, se ciò mi riconcedemi, sola mi sta di offro, amo, e so, così me lo io amore. Io sono franca, scelua, a cercare Parto, addio, di più non prana, Follia! giorno, ogni giorno muoia, sempre lieta ne ritrovi. Io vivo quasi in cielo. cammina donde vieni da Parigi chi te il commise fu la mia signora perché era di mar cavallico chi e quanto ancor possiede che mai sento lo spendio grande a viver qui sorrinchi e tacevi mi fu il silenzio imposto imposto orba bisogna di Parigi orvanne andrò a Parigi questo colloquio non sappia la signora il tutto valgo a riparare ancora Ooh. mi sposo andar dove va? Or si riposa il vincolo che lieti, lieti ne rendeva, che non mutate in triboli le rose della le rose dell'amor, a brievi miei resistere, no, no, non voglio il vostro cor, no, no. Non è ciò che chiedo. Cielo, che mio ciel ricade, offersi assai. Pur non basta. Volete vivere sempre a noi renunzi. E luogo. E no, a me. Angeli tuoi. Allora, qual figlia pensate? Sapete il compareste al pensier mio? Generosa è per voi che far possio, che far possio, o generosa. Conoscete il sangue a chi scrivevi? A te. Dammi quel foglio. No, però. Mi perdona, sono io preoccupato. Io. Giunse mio padre. Lo vedesti? Ah no, se ve l'ho scritto mi lasciava. Però l'attendo, t'amerai invaderti. E qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani.